e temo che della rivincita di Fred Buscaglione dovremo parlare la prossima volta, perché abbiamo sfasato un po' i tempi. Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a voi tutti per la cortese attenzione, grazie a Raffaele Didoni per la regia, e l'appuntamento rimane confermato per domenica prossima alla medesima ora. E ricordatevi della replica, che è mercoledì alle 21 più o meno. Radio Popolare.